Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora, le 8 e 20 minuti. E allora? È venerdì, caro Oscar, è da un po' che non te lo dico. Io devo dire la verità che sai che il venerdì non è per me un grande giorno di culto, perché si lavora il pomeriggio, si lavora il sabato e benedico di farlo. Puntini puntini, pensando al voto ieri del nostro editore nel Consiglio Generale, mi astengo dal commento, ma benedico fino a che ci sarà il lavoro. Comunque, detto tutto questo, io mi spiego in due da stamattina, perché devo dirti la verità, adesso andiamo al Santi, eccetera. Sì. Quando ho letto l'integrale pubblicato dell'intervista di Trump che diceva che si era inventato la pompa, io per un secondo mi ha evocato. Non so se l'hai letta. Allora, io sì, non sono riuscito a aiutare. Senso? Non lo so, mi scattavano degli avvicinamenti mentali, dei neuroni. Quali? Sono andati in sinapsi, quei pochi che funzionano. Si riferiva all'economia, sì, però c'è tutta. Adesso vi invito, cari ascoltatori, quando avete tempo, il testo è lungo, vedrete che l'Economist pubblica questa intervista integrale, come l'ha rilasciata Trump, e sono un pochino cattivoni, c'è no? Sul Corriere. Sono cattivoni perché nel non editarla lo fanno apposta in maniera che chi la legge colga, come se fosse di fronte a loro Trump, la ripetitività e la confusione con cui parla, per così dire. Allora c'è questa storia che lui si è inventato la pompa in economia, che è chiaro che il giornalista dell'Economist gliela fa dire come lui l'ha detta, per fortuna, questo si è inventato la pompa. Allora io sto morendo dalle risate, non ci posso fare niente, perché me lo vedo che lui parla così, però scusate. Avrete capito che era una notazione ironica. Innescare la pompa. Esatto. Però detto tutto questo, colgono l'effetto, secondo me, no? Perché gli uomini politici, a seconda di come parlano, ti fanno capire se hanno le idee chiare oppure no. Ecco, per così dire. E secondo te in questo caso? Non lo so, perché tutta la parte in cui descrive come e perché ha cambiato idea sulla Cina è di una confusione fantastica. Sì. I manipolatori della moneta. O la Cina hanno 8000 anni di storia. Noi invece siamo nati nel 1776, siamo una storia moderna. No, vabbè, c'è Trump che risponde. Però io ve la consiglio perché si capisce molto di come il mondo poi possa andare in un modo o nell'altro a seconda della variabilità degli umori, perché siccome il giornalista neanche fa troppo il cattivo nel fargli notare che su quasi tutti i temi su cui si parla ha detto A e il contrario di A, il presidente. Però detto tutto questo, santi di oggi, due santi che mi sono cari, ma in realtà compongono una triade, perché sono tre dei santi più storicamente nei secoli alle nostre spalle popolari a Roma, perché sono Nereo, Achilleo e Pancrazio, sono dei martiri. I primi due erano pretoriani e il secondo era un giovanissimo quattordicenne, martiri sotto Diocleziano, e per via di Papa Damaso fin dall'inizio sono stati nel martirologio romano dei punti di riferimento. Poi, siccome Nereo e Achilleo e la basilica che sta di fronte alla FAO, bellissima, per chi non l'avesse mai vista, in cui io poi mi sono... Il mio primo matrimonio, quello la cui moglie poi Elisabetta è morta di cancro, e Nereo e Achilleo sono per me, insomma, insieme a Pancrazio, mi riportano alla mia vita personale, per così dire. E detto tutto questo, cosa ricordare? Questo giorno è l'anniversario di una cosa bella e di una cosa non troppo bella, perché nel 1974, a proposito di sentenze sull'assegno divorzile, proprio oggi, nel 1974, gli italiani al 59,1% dicevano no all'abrogazione, quindi confermavano la legge sul divorzio. E la cosa invece brutta, che però ha segnato molti quelli della mia generazione, è che proprio in questo giorno, alcuni anni dopo, nel 1979, ricordando, ed erano scesi in piazza per quello gli amici radicali, proprio la scelta degli italiani di confermare il divorzio, a Roma finì in degli osceni scontri con la polizia e morì Giorgiana Masi. L'allora ministro dell'interno Cossiga rilasciò dichiarazioni di interviste secondo le quali non avevano sparato i poliziotti, e invece c'erano le fotografie che documentavano inequivocabilmente che agenti di polizia in borghese avevano sparato ad altezza Duomo. Ecco, la morte di Giorgiano Damasi, per chi era ormai grandicello come me, fece esplodere un'altra volta proteste, diciamo, non troppo legittime, non troppo lontane dalla violenza, in mezzo Italia, nei licei, nelle scuole, all'università. Non ho mai capito, gliel'ho anche più volte chiesto a Cossiga, perché rilasciò quella dichiarazione. Lui mi disse: Oscar, non dimenticare gli anni che vivevamo, bisognava difendere lo Stato anche a costo di bugie. Insomma, io penso che quando ci va di mezzo la vita di una diciannovenne, le bugie di Stato non bisogna dirle, ecco, questo è il punto, soprattutto poi quando era inequivocabile quello che era successo. Ogni tanto, secondo me, ricordare che queste cose non sono avvenute secoli fa nella nostra storia italiana è un bene. Auguri oggi a una figura che spesso mi riconcilia con l'ironia, è uno dei tre segretari confederali italiani, Carmelo Barbagallo, che compie 70 anni e che non ci posso fare niente, lo dico con più totale rispetto, perché suscitare buon umore è una cosa. Certe volte mi chiedo se, oltre a fare dal suo punto di vista benissimo il mestiere di leader sindacale, non avesse anche una carriera nel cinema alle spalle, nel cinema neorealista in bianco e nero, perché a volte più forte gli vengono queste espressioni siciliane che sembrano, insomma, a me evocano Ferribotte, quei film. Comunque, questo è il mio modo simpatico, spero, per fargli gli auguri, anche perché, insomma, fa il sindacalista da una vita. Oggi è la giornata mondiale, ho finito, di una figura centrale per la politica italiana e il cui ruolo mi auguro sarà sempre più importante per dargli il giusto il giusto avvio verso la ricerca di un equilibrio, perché è la giornata mondiale dell'infermiere. Che per la politica, ambulanza, capisci? No? Questo era una maniera ironica per dire. Del resto, vedo che ormai hanno inscenato anche una vicenda abbastanza surreale, di cui forse era meglio si astenessero, al governo, sulla cosa scuola vaccini, per dimostrarci che il commissariamento da parte del PD del governo è più che mai necessario, visto che gli incidenti, come vedi, si praticano. Non so come la pensi tu, però forse se evitavano al governo di dividersi sulla questione vaccini scuola era meglio. Io penso che debbano essere obbligatori i vaccini dal punto di vista medico, poi dal punto di vista politico non penso nulla, nemmeno io. Però scusami, fa bene le autorità locali che agli asili dicono chi non si vaccina non viene, mette in terra rischio gli altri. Questo provvedimento, dice il ministro Lorenzini in un'intervista, sarebbe valido, ed è valido se verrà fatto, per le sole scuole elementari, perché per gli asili non possono entrare nelle competenze. Però insomma, su questo si è diviso e spaccato il governo. Però Oscar, noi abbiamo chiamato Marco Cappato, che è con noi. Buongiorno Cappato. Buongiorno a voi. E grazie di essere qui. Grazie a voi. Perché dobbiamo, come dire, riaprire un caso che non è chiuso di fatto. La vicenda di DJ Fabo, ricordate, accompagnato da Marco Cappato in Svizzera per il suicidio assistito che DJ Fabo voleva. Ricordate che di recente Marco Cappato, tra l'altro, che si è autodenunciato alla procura di Milano. I PM che hanno indagato hanno chiesto l'archiviazione, ma il giudice vuole prendere un po' di tempo. Intanto sentendo anche la versione di Cappato, che rischia quanto, Cappato? Il reato è quello di aiuto al suicidio, da 5 come minimo a 12 come massimo anni di carcere. E si aspettava questo stop del giudice in qualche modo, perché i PM che indagano e che dicono archiviate tutto, sembrava porre una fine a questa vicenda dal punto di vista processuale. Ma io credo che sia comprensibile, rispetto assolutamente questa decisione, perché i pubblici ministeri avevano offerto una interpretazione, a mio avviso molto importante e interessante, delle norme, perché esiste questo reato che abbiamo detto, che è stato fatto nel 1930, quindi in piena epoca fascista, che non distingue in alcun modo l'aiuto a una persona magari completamente sana o l'aiuto al suicidio di un malato terminale sottoposto a sofferenze insopportabili. però dopo il 1930 poi c'è stata la Costituzione, la giurisprudenza sui casi Welby e Englaro, c'è giurisprudenza europea su questo tema e la procura ha cercato di interpretare la giurisprudenza e i principi costituzionali sostenendo che certo c'è un diritto alla vita che va tutelato, ma dentro questo diritto alla vita c'è anche un diritto alla dignità e alla non sofferenza. E allora, se noi abbiamo, come la Costituzione prevede, il diritto a interrompere qualsiasi trattamento sanitario, perché questo è già un diritto, anche se questo provoca la morte, poterlo fare a quel punto, come nel caso di Fabiano, non staccando macchine che l'avrebbero portato a un'agonia di molti giorni, ma con una sostanza eutanasica, letale, che lo possa fare in pochi minuti, diventa solo un modo più dignitoso e anche più efficace per arrivare alla stessa. Ma infatti l'EPM, Tiziana Siciliano e Sara Arduini, hanno scritto che nelle condizioni in cui si trovava e con l'esito che gli era stato prospettato in caso di rinuncia alle cure, bisogna riconoscere che il principio del rispetto della dignità umana impone l'attribuzione a Fabiano Antoniani e in conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni di un vero e proprio diritto al suicidio, scritto tra virgolette. Però su questo capato hanno accusato i giudici di sostituirsi in qualche modo a un legislatore che è carente, che non... Parliamo poi del legislatore, perché io non sono un fan dell'intervento dei giudici, come sapete, da molti punti di vista. Però la prima proposta di legge per legalizzare l'eutanasia l'ha presentata Lois Fortuna, il padre della legge sul divorzio, esattamente 40 anni fa. In 40 anni il Parlamento non è riuscito a fare non solo, come chiediamo noi da tempo, la legalizzazione dell'eutanasia, ma nemmeno il testamento biologico, che è adesso in discussione alla Camera, è passato alla Camera in discussione al Senato. Quindi evidentemente ci sono dei principi, quelli costituzionali, della libertà di scelta su noi stessi, sul nostro corpo, che sono comunque applicabili. Le sentenze di assoluzione sul caso Welby nei confronti di Riccio, sul caso Englaro ed altri, derivano proprio dal fatto che comunque non abbiamo una legge specifica che ci spiega dettagliatamente come comportarci in queste situazioni, ma abbiamo comunque dei principi costituzionali di libertà che prevedono che da un certo punto di vista il nostro corpo è sacro, avete parlato prima dei vaccini, sì, no? Sì, esatto. Nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per motivi che possono riguardare la salute di tutti, il TSO, i vaccini, ma è chiaro che quando io decido sulla mia morte... Non siamo in quel caso. Quando Fabio decide sulla sua condizione di sofferenza... evidentemente non sta arrecando un danno a nessuno. Oscar, non c'è una legge e poi ci sono i casi concreti, no? Purtroppo insomma si è sempre parlato così, e poi quando ci sono i casi concreti il legislatore in qualche modo e anche i magistrati devono in qualche modo intervenire, e poi con la discrezionalità in alcuni casi di applicare alcuni principi, in altri casi di applicarne altri, no? Esattamente. Certo, io non so se Cappato davvero rischia dai 5 ai 12 anni di carcere. Ma c'è codice alla mano, sì, ma davvero sente di rischiare questo tipo di condanna? Io credo di allora no. C'è un'altra inchiesta aperta dalla Procura di Massa nei confronti di Mina Welby e mia per la stessa azione, e credo che lo spirito dei tempi, ma non lo dico, non diciamo così demagogicamente in termini di opinione pubblica. Ma su quale caso a Massa? Non ho capito sempre. Il caso di Davide Trentini, che era un malato di sclerosi multipla da moltissimi anni e che non aveva... i soldi perché ricordiamo che c'è questo problema, no? Uno se lo può permettere di spendere 10-12 mila euro per andare in Svizzera, oppure altro. No, come ai tempi dell'aborto, no? Chi può permettere se lo va all'estero. Trentini non aveva la cifra intera, l'abbiamo aiutato economicamente, anche qui autodenunciandoci alla Procura di Massa, che ha aperto un'inchiesta nei confronti miei e di Mina Welby, che lo ha fisicamente accompagnato. Io penso che, perché dico lo spirito dei tempi? Perché il modo del morire è cambiato moltissimo negli ultimi 50 anni, quasi nessuno muore più di morte immediata, è un processo che può durare molti anni e quindi la necessità di interagire, di decidere sul come affrontare e vivere queste fasi, che possono essere anche lunghe, fa parte integrale del diritto alla vita ed è un'esigenza sociale sempre più diffusa, tant'è che c'è una favore di opinione pubblica che sarebbe inspiegabile se guardiamo le grandi trasmissioni dei salotti televisivi che mai si occupano di questi temi, eppure le persone riconoscono nel vissuto di quello che hanno provato con un familiare, con un parente, l'importanza a un certo punto di poter dire vabbè, ma almeno non fatelo soffrire, almeno non mi faccio soffrire. Questa è un'esigenza sociale così diffusa che io credo che, non so se nell'immediato si andrà a processo o ci possa essere una condanna, questo non lo so, ma non possiamo non andare nella direzione di creare delle regole, altrimenti l'alternativa è l'eutanasia clandestina, i suicidi che sono un migliaio all'anno di malati terminali che si buttano dalla finestra dell'ospedale o cose di questo genere. Una risposta bisogna darla, perché appunto non è a favore o contro l'eutanasia, è a favore di regole per una eutanasia che sia verificata, controllata, per evitare degli abusi, come invece accade con l'eutanasia clandestina. Spero che il Parlamento, almeno adesso sul testamento biologico, questi due giorni facciamo mobilitazione, sì, contavo in tutta Italia, almeno su questo ci siamo assunti, sì, di responsabilità. Sul testamento biologico c'è più dibattito, Oscar, sull'eutanasia credo che ci sia una chiusura e anche non ci siano i numeri assolutamente per discutere nel Parlamento, cioè per farla approvare. La politica continua a preferire l'ipocrisia, girarsi dall'altra parte in nome di una morale, la morale dell'ipocrisia? Sì. È questa la morale della politica prevalente. È questa la morale dell'ipocrisia. Guardare, no, non guardare quello che avviene nei padiglioni degli ospedali, quello che, no, non guardare. In nome di principi. E questo però da decenni, Marco lo sa, che tentiamo di incidere su questo pesante muro di ipocrisia spacciato per principi indisponibili di etica. Bah. E su questo però sai che l'eutanasia, insomma, è un tema molto delicato. E Marco Cappato, si dice molto spesso che i casi di eutanasia non sarebbero richiesti o diminuirebbero se ci fosse invece una giusta terapia del dolore, un accompagnamento al fine vita, che questo dovrebbe essere applicato in tutte le strutture private, pubbliche, da qualsiasi medico coscienzioso, che infatti non dovrebbe, e in genere non fa un passo indietro da questo punto di vista, no? E questo, se ci fosse, forse ridurrebbe anche la richiesta di eutanasia, o no? Questo è un aspetto importantissimo. È un aspetto importantissimo. Guardiamo la realtà dei fatti. L'Olanda, il Belgio, paesi che hanno legalizzato l'eutanasia, sono tra i paesi più avanzati al mondo in termini di assistenza medica, nessuno può discutere questo, anche in termini di terapia del dolore, attenzione al paziente. L'Italia ci è arrivata con una buona legge, spesso non applicata, molto in ritardo, e invece questi paesi, e al tempo stesso, non so, in Olanda su 15 milioni di abitanti sono quasi 6.000 casi di eutanasia legale all'anno, controllati, verificati da commissioni mediche, giudici che reprimono gli abusi, eccetera. Quindi non è vero che la terapia del dolore può sempre risolvere il problema. Nel caso di Fabo, alcuni spasmi, pruriti, cose che sembrano irrilevanti per noi e che sono una tortura per chi si trova in quella condizione, facevano sì che la terapia del dolore, alla quale lui pure era sottoposto, curato benissimo da centri ospedalieri a Milano, non fosse sufficiente. Allora, questa argomentazione è utile per dire una cosa che va detta tutti insieme: bisogna fare non solo di più, ma molto di più per l'assistenza, le cure, la terapia del dolore, le cure palliative, i diritti delle persone malate e disabili. A volte l'eutanasia è una richiesta in realtà disperata di attenzione e di cura. Sì. Proprio per questo serve legalizzare, perché se io ti ascolto quando tu mi dici che vuoi morire, e non cerco di mandare in galera chi ti aiuta, magari riesco a darti una risposta diversa, che deve essere una risposta di assistenza, di cura. Poi se, nonostante questa risposta, tu confermerai quella volontà perché il dolore è insopportabile e perché la malattia è irreversibile, a quel punto cosa devo fare? Perché devo importi una soluzione che magari non è la mia? Nessuno di noi può sapere che cosa sceglierebbe in quelle condizioni. Bisogna trovarci, sì. Allora, noi intanto vedremo, perché a luglio, se non sbaglio, ci sarà questo confronto. Come va chiamato tecnicamente? Una convocazione? Il 6 luglio è un'udienza di fronte al GIP. Mentre che poi deciderà se archiviare oppure rinviare il giudizio. Questo certo, e ricordiamo, è importante perché sono in corso le audizioni al Senato sulla legge sul testamento biologico. Perché lo ricordo sempre? Perché siccome la legislatura sta per volgere al termine, se il Senato si mette a fare una lunga trattazione e delle modifiche al testo per poi rinviarlo alla Camera, noi rischiamo di buttare via altri 5 anni di legislatura prima di avere una legge. Sì. Una legge che in questo caso riconosce una cosa molto semplice: se io ho diritto a sospendere e rinunciare a delle terapie, posso anche scrivere su un pezzo di carta che nel caso in cui un domani fossi incapace di intendere, di volere, magari viene rispettata la mia di volontà e non imposta la decisione di qualcun altro, dei medici, di familiari e non so chi. Ecco, un principio di civiltà molto semplice: siamo rimasti uno degli ultimi paesi in Europa a non avere questo tipo di... Attenzione, a volte si dice non interessa a nessuno. Sì. Negli Stati Uniti d'America sono più del 50% i cittadini americani che hanno lasciato indicazioni su cosa vorrebbero. No, ma poi non è vero che non interessa nessuno. In Italia questi temi vengono trattati come cronaca, no? C'è il caso, viene fuori il caso, discutiamo del caso. C'è il caso, però c'è un confronto che riguarda tutti e io spero, a prescindere se ci sarà processo, non processo, eccetera, che questo tipo di azione, disobbedienza civile e queste vicende servano a prendere consapevolezza per un gran numero di persone di come questi problemi non vadano rimossi, sia meglio iniziare ad informarsi, cercare di capire di cosa si tratta. Grazie Marco Cappato per essere stato con noi. E certo, poi la legislatura, Oscar, magari finisce anche prima, visto che la corsa è andare a votare a ottobre. No? E quindi non c'è neanche la primavera come e quindi si riparte poi da zero. Questo è. In ogni caso, andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo anche con gli ascoltatori. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo qui alle 8:47 minuti. Io ho pronto un testo di legge che prevede l'accesso alla scuola dell'obbligo, l'obbligatorietà delle vaccinazioni obbligatorie, con un ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie rispetto a quelle da oggi, quindi un superamento della dicotomia, con il Ministero che darà l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie, che ho mandato già nella giornata di oggi al Presidente Gentiloni. Cioè lei ha pronto un decreto che porterà domani in Consiglio dei Ministri? Esattamente. Insomma, Night Tabloid, il ministro Lorenzin ha detto era tutto pronto e oggi era la giornata del... E poi che è successo, Oscar? È successo che la Fedeli si è arrabbiata, ha detto no, Gentiloni si è arrabbiato, è saltato tutto. Già, cioè è una cosa paradossale, no? Scusami, perché tu dici adesso tu hai il sospetto politico, che sì, ho il sospetto politico che ormai ogni vicenda diventi la conferma di una cosa. Io sai, sono vecchio, allora ai tempi del pentapartito, quindi negli anni 80, i segretari di partito tenevano il governo, i cui presidente del consiglio variavano di anno in anno tra DC, PSI, eccetera, tranne un periodo un po' più lunghetto con Craxi, lo tenevano in scacco. Come lo tenevano in scacco? Si erano inventati una cosa che si chiamava consiglio di gabinetto all'epoca, prima di ogni consiglio dei ministri, prima dell'ordine del giorno addirittura, c'era l'esame delle misure che potevano o non potevano entrare in consiglio dei ministri, e lo esercitavano i segretari dei partiti. Io tra l'altro, come portavoce di uno, ero ammesso in seconda fila e devo ammettere che aver partecipato a quegli incontri mi dava uno spaccato vero, no, della vita politica italiana, di che cosa era davvero, al di là di quello che si dichiarava fuori. Poi infatti mi è passata la voglia. All'epoca devi sapere che il PC insorgeva contro il Consiglio di Gabinetto, secondo me ben ha ragione, accusandolo di incostituzionalità, di prevaricazione degli interessi dei partiti sull'interesse pubblico che il governo doveva preservare. Adesso tutto è cambiato, lo fa il PD nei confronti di un governo a guida PD e tutti muti, è tutto normale. Allora, la vicenda di ieri, che se permetti ha del paradossale, no? Su una vicenda così delicata come quella dei vaccini obbligatori, con numerose autorità locali italiane che secondo me giustamente hanno già assunto misure per gli asili nido comunali, per dire chi non ha i bambini vaccinati non può, per questa sua libera scelta, articolo 32 della Costituzione, per carità, però esercitare un impatto di rischio sul totale della popolazione dei bimbi, perché quando si scende il tasso di copertura sotto una certa percentuale riappaiono le patologie, e questo riguarda tutti, non riguarda la scelta della famiglia che sul proprio piccolo bambino decide di non vaccinarli. Ecco, allora, che questo principio si estenda alle scuole elementari secondo me è sacrosanto. Che il governo abbia trovato il modo di inscenare una polemica così frontale su questo delicato tema, che da mesi e mesi, no Alessandro, quante volte ce ne occupiamo, è l'agenda pubblica, mi fa venire il sospetto politico che oramai si usi qualunque cosa pur di dire voto, voto, voto, Gentiloni a casa. Ecco, mi pare di capire. È dato per irritato, questo almeno ci credo, nei giornali, ci credo. Ha chiamato il Ministero della Salute a dire: ma come fate a dire che c'è un testo pronto quando nessun testo è arrivato per essere discusso in Consiglio dei Ministri? Comunque c'è Andrea che ci chiama da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ecco, io vi seguo sempre, quando posso Giannino lo seguo anche in altre trasmissioni, però al sud dicono mi sta andando in fracore questa storia di vaccini, perché è una cosa. Io ho due figli maggiorenni, primo vaccinato, secondo no, hanno frequentato scuole, le scuole Waldorf steineriane, dove molti bimbi non sono vaccinati, quindi ma per 11 e passa anni, d'accordo, per cui non trovo corretto in ogni trasmissione. Mi è capitato dalla Gruber sentire intervistare Di Battista e chiedere: ma suo figlio lo vaccinerà? Ieri sera Formigli, la stessa domanda allo stesso politico. C'è qualcosa di sospetto in questa questo battaglia? Se dice sospetto, mi faccia capire una cosa. Lei è indifferente al fatto che sono riapparse patologie perché la copertura vaccinale è scesa per alcune è l'80%, per altre l'85%, per altre il 90%, quella sotto la quale... Il morbillo, mi pare. Ebbene, per esempio il morbillo. Per esempio morbillo. Il morbillo, ecco. Io ho sentito Massimo Fini qualche giorno fa, diceva una cosa che avevo pensato io più o meno alla stessa età. Ok. Da bambino mi ricordo che una sorella l'aveva preso e i miei mi hanno fatto giocare assieme perché lo prendessi anch'io, perché era un modo di creare immunità, pure. Ma non vivevamo in una favela o in un campo rom, era una famiglia normale. Adesso Massimo Fini, che è un fine intellettuale, magari non è uno scienziato, no? Ma io non sono un fine intellettuale. No, Massimo Fini sì, però, Massimo Fini sì, e appunto il problema è questo, non è uno scienziato. Mi putta una cosa. Mi ricordo che a suo tempo il ministro De Lorenzo, se lo ricordate... Sì, certo. Ok, mi sembra di ricordare bene che tra le altre cose aveva intascato dei soldi per rendere obbligatorio un vaccino. Ma potrei sbagliare. Lei sostiene che noi siamo al servizio dei Big Pharma. Va bene. Lei ha evocato apposta lo spettro di uno condannato per tangenti. Andrea, non faccia il finto che cade dal pelo. Lo ha evocato lei. E io mi indigno apposta, non perché non rispetto il suo punto di vista, lo faccio perché gli ascoltatori capiscano che sta ricorrendo a un perfido strumento da professionista della comunicazione, Andrea. Infatti le faccio i complimenti, è una bella maniera per difendere un atteggiamento invocato come libertà. Io lo rispetto, articolo 32, è ovvio, io sono libertario, figurati se glielo contesto, però... Il diritto che va contemporaneo è al fatto che non bisogna mettere a rischio la popolazione dei bimbi. Ecco, questo è il punto. Sì, magari Andrea dice: non noi siamo al soldo di Big Pharma, ma c'è qualcuno che propone i vaccini in quanto ha degli interessi occulti. Non chi si limita a dire: fidatevi del parere degli scienziati, tutto qua. Ecco. Allora, dai, ci dobbiamo fermare qui. Stefano dalla provincia di Roma lo recupereremo lunedì, magari. Come al solito noi gli ascoltatori teniamo i numeri e quindi c'è la possibilità di richiamarli, se sono d'accordo, ovviamente, se sono d'accordo. Dai, ci fermiamo con Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Oggi c'era Paolo Corleone in regia, perché caro Oscar, il nostro alpino Bescapè, è andato alla grande adunata. Ha detto che quest'anno berrà solo sidro, succo di mela, e mangerà invece dei salami, gli hamburger di soia. Però lungamente diluiti in grappa. Hamburger di soia vegani. Sarà una adunata vegana e poco e niente. Dai, che quando torna lunedì mettiamo un po' di marcio. Va bene, ok. A lunedì.